Buongiorno a tutti, buon lavoro nel nostro orario. Anche martedì prossimo avremo quest'ora di queste ore di recupero. Su Chauvet siamo chiusi il programma, quindi quasi certamente lo confermerò comunque giovedì. Mi sentite? Sì. Sì. Sentite? Sì. Sì. Quindi giovedì vi confermerò, ma probabilmente anche martedì prossimo avremo queste due ore dedicate a Chauvet. Il capitoletto nostro dell'ultima volta era quel tentativo per vendetta di approccio da parte di Delorier, sì, quel tentativo di approccio di Delorier a Madame Arnoux, vi ricorderete, in cui usa queste parole, dice: ma io vi amo. In realtà naturalmente è una forma di pura mera per mera concupiscenza, per odio. Ma l'episodio è anche interessante per vedere come le stesse parole vi amo, eccetera eccetera, possono assumere un tono ridicolo, grottesco, di falsità, e un tono invece di così straziante verità, no? Quindi serve anche da questo punto di vista l'episodio. Voi sapete che c'era nell'episodio in cui lui cerca di baciare, ma da Marco dice che lui, Frederick, dice che lui sta per sposare. E naturalmente, qual è il bene di cui è in possesso Madame Arnoux in una vita fatta sentimentale, fatta di niente? È semplicemente questa tacita promessa di fedeltà che i due si sono accesi con scarse parole fino a questo momento, scambiate. Quindi sentire che lui si sposa, evidentemente è un colpo al cuore. Parlando di Delorier, volevo farvi notare una cosa di cui vi ho già detto, ma credo che non con sufficiente insistenza. Vi ricordate che vi ho detto che i personaggi della versione sentimentale parlano tutti secondo il loro ruolo, come figure della commedia dell'arte, per cui uno può prevedere come parlerà, che so, Madame Arnoux, eccetera, la mamma, per esempio, di Frederick. Si sa che è una persona anziana, arida, è una persona che di nessuna sensibilità, si sa che agirà sempre in questo modo. Volevo fare una ripartizione precisa tra i maschi e le femmine. Flaubert sa dipingere meravigliosamente, come si direbbe, le donne. E le donne sono ognuna con una sua personalità distintissima, e probabilmente, anzi senza probabilmente, il vero capolavoro di Flaubert è la descrizione della psicologia femminile e del modo di comportarsi delle donne. E degli uomini? Poniamoci questo problema. Vi ho detto che lui ha un atteggiamento, come dire, prealabile, preliminare, di irritazione, di spettro nei confronti degli uomini. È così, li ritiene stupidi gli uomini, rozzi, duri di cuore. E starei per dire, questa è un'osservazione che mi permetto di farvi molto, che mi permetto di giudicare molto fine, starei per dire che lui vede gli uomini come li vede una donna che ha una acrimonia nei loro confronti. Osservazione che non è mai stata fatta, perché lo che faccio in questo momento preciso, di cui sono abbastanza, vi confesso, proud of myself, perché voi sapete, dunque, noi tutti conosciamo gli esseri, gli uomini, evidentemente, uomini e donne li conosciamo, ma se una donna è stata delusa, se è stata tradita, vedrà male gli uomini. È la stessa cosa al rovescio? No. Perché l'uomo è molto più importante per la donna di quanto la donna sia più importante per l'uomo. Questo è il punto. Non Quindi essere, se voi fate una specie di sondaggio, insomma, tra le ragazze che sono state tradite, malmenate dalla sorte, per così dire, vedrete che hanno una sorta di acrimonia, sono poi le famose zitelle, quelle che non si sfondano, che rimane tutta la vita e viene fuori sempre per ogni modo. Bene, lui dovrebbe raccontare gli uomini in questo modo, perché uno si può dire, ma come? Lui, un omone grande e grosso, come vi ho detto, stando ai nostri criteri fisici di altezza, Flaubert oggi sarebbe alto quasi 2 metri, perché ha più di 1,80, enorme, quindi pensate alla differenza di almeno 20, ma che dico, di almeno 30 centimetri, quindi era veramente un uomo grosso, che si sente come una donna, questo è il punto. Sì, questo è proprio un mistero della personalità flaubertiana. È uno che è riuscito a immedesimarsi così bene nella personalità femminile che ha descritto gli uomini dal punto di vista più critico che una donna possa assumere. Va bene? Naturalmente, quando si alterna, per esempio, una qualunque donna, una Madame, una Rosanetta, eccetera, al Delorier, quindi viene fuori massimamente la grossolanità, la rozzezza dei Delorier. Ecco, proprio direi questa parola rozzezza. Rozzezza. È la lezione che abbiamo fatto su Madame, l'altro giorno abbiamo avuto un esempio di rozzezza. Ho pensato dopo anche qual era la parola più adatta, insomma, è proprio la parola rozzezza, proprio rusticità, fango sotto le scarpe, per non dire altro, insomma, è per indicare, non so se vi ricordate l'episodietto, insomma, che ci ha impedito tra l'altro di dedicarci con sufficiente attenzione a quella parte mallarmeana su cui converrà ritornare, però non si può fare. Come dice l'adagio latino, adesso lo dica lei, adesso lo dice lei. Io dico la prima parte, ad impossibilia ventim, nemo tenetu, alle cose impossibili, cioè di fronte a manifestazioni così manifeste di volgarità e rozzezza, nessuno però può ritornare. Come un sacerdote che recita messa, se trova un cane che viene in chiesa, gli si mette sotto la sottana, ha preso l'idea, non può continuare a celebrare. Non so se sono stato sufficientemente fantastico. Ho reso il mio pensiero perché queste ragazze hanno un viso bellissimo, se non posso consentire di dire, è molto intelligente. Ho reso il mio pensiero in modo icastico. Torniamo quindi alla nostra cosa. Quindi Delorier, ogni volta che si sente prima parlare la parola, poi si sente Delorier, è come sentire un colpo di pistola in un concerto, no? Per la rozzetta di Delorier. Delorier cosa vuole? Vuole soldi, vuole fare carriera, no? Vuole queste cose qui, insomma. Ecco. Oh, e adesso c'è questa storia della ragazzina che vuole sposarsi. Ma è una ragazzina. E questo è il punto, una ragazzina. Quindi è a due scemaggi, diciamo così. Una, la felice scemaggi dell'età, è quella che è quella forma di ingenuità. Io l'ho visto una cosa terrificante, orribile dictu auditunque alla televisione. Una ragazza di 21 anni, calabrese, che ha scritto un romanzo e ha pubblicato un grande editore per tentare il colpaccio. E questa sventurata, un culettino circolante, questa sventurata, citata nelle sue parole, ci parlava, aveva scritto in dialetto per imitare, indovinate chi è che scrive oggi, che vende libri come si vendono bruscolini? Chi Camille, Madonna buona! Ma a un certo punto dico, ma non è possibile, questa si ritiene una scrittrice. Ma che cos'è? È diarrea. Che cos'è questo? Non mandate mai in libreria, vi scongiuro, passate il vostro tempo ai distributori di benzina, ma non entrate in libreria. Questo volevo dire. Questo è un altro pensiero che spero che mai mai, cercando di parlare, non riusciva a parlare, perché a partire da un libro ci vuole vita, anima, cultura, esperienza, finezze. Ma se gli si chiesta a queste ragazzine, ma che cos'è un ipotiposi, per dire? Cos'è un assinetto? Non avrebbe saputo dire. Ma come fai a scrivere senza, con queste ignoranze abissali, immedicabili? Sono un po' facili da muovere. Adesso mi rimetto. Parlando di lui, no, perché la verità, sono anche rattata al parlare di questa Louise, la ragazzina, che a un certo punto, essendo scena, cosa dice? Non sapevo fare un'osservazione, Flaubert, del stigmatizzare la stupidità umana è ineguagliabile. Dice che a un certo punto, dice che Louise aveva fatto questa osservazione a Frederick, due punti, amo la vita dei pesci. E un'osservazione di questo genere parla da sola. Amo la vita dei pesci. Non ci sono commenti da fare su queste cose. Chi le capisce e chi non le capisce. Oh, Frederick però si era fatto vedere alle corse di cavalli con Rosanette. E allora, in questi rapporti amorosi non detti, come vi ho detto, la fedeltà è tutto. Le mani non hanno potuto fruire dell'altrui corpo in una contubernalità ringhiante. Ma il fatto che tu mi sei fedele è tutto. E allora come la mettiamo? Lì, alla fabbrica di ceramiche, a un certo punto si apre, dove lui è sempre lì sostanzialmente, sempre ai piedi, Frederick, si apre una porta e appare Madame Arnoux, è la vede. Il capoverso, non ve l'ho ancora detto, il capitoletto, prendete dal, quindi dal 24 che voi avete, 279 mio, dovete andare al 298, 89, quasi 20 pagine, e poi trovate il capoverso che dice la portière se releva, Madame Arnoux parut, quasi 20 pagine, 293, la porta aprendosi, aprì la porta e Madame Arnoux appare. Attenzione bene, grande concentrazione, è un passo lungo, leggiamolo e sentiamo il ritmo, la situazione l'avete presente, i due si rivedono, e lei ha un qualcosa dentro, perché si ha visto sto stronzo che alle corse stava con la possibile potenziale rivale. Bastardo, non avrà detto queste parole, ma insomma in francese, bastardo. Madame Arnoux appare. Come voi qui? Voi? Sì, la mamma entrò un po' turbata, cercavo. Lui vide il suo fazzoletto sulla scrivania e immaginò che fosse scesa dal marito per rendersi conto, per chiarire senza dubbio una preoccupazione. Ma voi avete forse bisogno di qualcosa? Ella disse. Non niente, signora. Questi commessi sono intollerabili. Si assentano sempre. Non bisognava biasimarli. Al contrario, lui si rallegrava della circostanza. Ella lo guardò ironicamente. Ebbene, di questo matrimonio? Quale matrimonio? Il vostro? Io? Mai e poi mai. Lei fece il gesto di negare. Quando anche, dopo tutto, ci si rifugia nella mediocrità per disperazione della bellezza che si è sognata. Tutti i vostri sogni, tuttavia, non erano così candidi. Che volete dire? Quando passeggiavate alle corse dei cavalli con certe persone, lui maledisse la marescialla, non ricordo gli tornò. Ma siete voi, una volta che mi avevate pregato di incontrarla nell'interesse di Arnù. Ella replicò scuotendo il capo. Voi ne avete approfittato per distrarvi. Mio Dio, dimentichiamo tutte queste sciocchezze. È giusto, poiché state per sposarvi. E tratteneva il respiro, mordendo le labbra, mordendosi le labbra. Allora, lui esclamò, ma io vi ripeto di no. Potete credere che io, con i miei bisogni di intelligenza, le mie abitudini, vado a cacciarmi in provincia per giocare a carte, sorvegliare i muratori e camminare in zoccoli? E con qual fine, d'altronde? Mi hanno raccontato che è ricca, non è vero? Ah, ma io me ne infischio del denaro. Dopo aver desiderato tutto quello che c'è di più bello, di più tenero, di più incantevole, una sorta di paradiso in forma umana, e quando l'ho trovato infine questo ideale, quando questa visione mi nasconde tutte le altre, e prendendole la testa fra le mani, si mise baciarla sulle palpebre, ripetendo, no! No, no, non mi sposerò mai, mai, mai. Lei accettava le sue carezze, impietrita dalla sorpresa e dal rapimento. La porta del magazzino sulle scale si richiuse. Lei fece un salto e restò con la mano tesa come per imporgli il silenzio. Dei passi si avvicinarono, poi qualcuno disse da fuori. C'è la signora? Avanti! Madame Arnoux aveva il gomito sul banco e si girava fra le dita una penna tranquillamente quando il contabile aprì la porta. Federico si alzò. Signora, ho l'onore di salutarvi. Il servizio, le vero, sarà pronto? Posso contare su di voi? Ella non rispose. Ma quella complicità silenziosa infiammò il suo viso di tutti i rossori dell'adulterio. L'indomani egli ritornò da lei e fu ricevuto. E per proseguire nella sua posizione di vantaggio, immediatamente, senza preamboli, Federica cominciò per giustificarsi dell'incontro al campo di Marte. Il caso, solo il caso, aveva voluto che si trovasse con quella donna. E ammettendo che fosse graziosa, che non era vero, ma come avrebbe potuto fermare lì il suo pensiero anche un minuto poiché ne amava un'altra? Voi lo sapete, io ve l'ho detto. Madame Arnoux abbassò la testa. Sono in collera per il fatto che me l'abbiate detto. Le convenienze più semplici esigono adesso che io non mi riveda più. Egli protestò l'innocenza del suo amore. Il passato doveva rispondere davanti a lui dell'avvenire. Non aveva promesso a se stesso di non turbare la sua esistenza, di non stordirla coi suoi lamenti. Ma ieri il mio cuore era troppo gonfio. Noi non dobbiamo più pensare a quel momento, amico mio. E tuttavia, dove sarebbe il male quando due poveri esseri confondessero la loro tristezza? Perché nemmeno voi siete felice, nemmeno voi, io vi conosco, voi non avete nessuno che risponda al vostro bisogno d'affetto, di devozione. Io farò tutto quel che vorrete. Io non vi offenderò, ve lo giuro. E si lasciò cadere sulle ginocchia suo malgrado, accasciandosi sotto un peso interiore troppo alto, troppo greve. Alzatevi, ella disse. La voglio. Ed ella gli dichiarò imperiosamente che se non avesse obbedito non l'avrebbe rivista. Ah, ti sfido! Riprese Frederic, Che cosa ci sto a fare io in questo mondo? Gli altri si scannano per la ricchezza, la celebrità, il potere. Io non ho una professione. Voi siete la mia occupazione esclusiva, tutta la mia fortuna, lo scopo, il centro della mia esistenza, dei miei pensieri. Io non posso più vivere senza voi che senza l'aria del cielo. Forse lo sentite, il sospiro della mia anima salire verso la vostra, e che le nostre due anime debbono confondersi. Io ne muoio. Madame Arnoux si mise a tremare in tutte le membra. Oh, andatevene, andatevene, ve ne prego. L'espressione sconvolta del suo viso lo fermò, poi fece un passo, indietreggiava, unendo le due mani fra loro. Lasciatemi, in nome del cielo, di grazia. E Frédéric clamava talmente che uscì. Allora, vediamo questa faccia mirabile. Vediamo questa faccia mirabile. Quando Frédéric cerca in qualche modo di giustificare la sua condotta, dice: guarda, che io fossi stato lì volontariamente vicino a questa donna che disprezzate giustamente Rosanella, ma questo sarebbe stato una disperazione, perché quando il sogno non c'è più nella vita, pensate alla bellezza di questa frase, e allora uno si rifugia alla felicità. In fondo poi questo è un po' il destino di un uomo nei confronti dell'amore, sì, anzitutto, ma poi anche nei confronti del lavoro, per esempio, della professione. Pensate quanti di noi hanno potuto, potranno essere all'inizio della vita, ma potranno fare quello per cui hanno studiato, pochissimo. La maggior parte di persone fa una cosa diversa. Dopo che il sogno è finito, la ragazza che conosco voleva fare, deliziosa, benissima, voleva fare la ballerina classica. Ma era di famiglia povera. Non avevo certo i soldi per poterla fare studiare, diventare danzatrice classica. E quindi questo è rimasto sempre un sogno nella sua vita. Quanti di noi hanno voluto, per esempio, una facoltà di lettere, forse pochi quelli effettivamente, hanno voluto diventare scrittori, chissà fosse anche professore, non hanno potuto farlo. Quante frustrazioni si vedono dipinte sulle facce delle persone che hanno dovuto rassegnarsi a un kind of mediocre. Quindi lui cerca di giustificarsi in questo modo, e lei, ecco qui, sì, esatto, e lei naturalmente è una donna gelosa, una donna che ama è gelosa, la gelosia fa parte dell'amore. Proust diceva una frase famosissima, da cioccolatini per uccidere, per diventare. Diceva, però di una straordinaria verità, vuol dire che io in tutta la mia vita non ho mai trovato una smentita di questa frase. Diceva, finché uno ama, è geloso. Questa era scritta a capo del letto, però scrivendo vicino a sé. Lasciamo anche a oppure potete magari per omaggio a me potete dire che il Marsepuso citata da finché uno ama è geloso, e quando non è più geloso vuol dire che non ama più. Devi capire dentro di te che quando non sei più geloso, le parole che tu dici, no, io amo il pinco pallino, il Censorena famoso di cui parlavo, ricordate, avrebbe sposato Censorena, non è questa cosa qua, ecco, no? C'è l'uomo di turno, ma se non sei più geloso, vuol dire che non l'ha più. e quindi chiede conto della marescialla. Marescialla. Oh, vi faccio notare che questo epiteto della marescialla ha qualcosa di grottesco, perché era la volta che si era messa vestita da maresciallo in una festa in costume, però tutto questo è tutto questo la resa ridicola per sé, in qualche modo, no? Madame Arnoux è sempre Madame Arnoux, ieratica, massiccia, e lei è la marescialla. E dice, ma come volete che io vada a venire in campagna? Lui, Frédéric, voleva a Parigi, voleva una vita corta, voleva scrivere, voleva, no? Erano queste le sue cose. All'inizio vi ricordate che non si sapeva se volesse scrivere o dipingere. Perché sotto il braccio, vi ricordate, avevo un album per fare disegni. Solo delle incertezze. Quando siamo giovani, molto, ci sono delle incertezze. Io mi ricordo perfettamente un mio allievo, poi diventò uno scrittore famoso e io ormai molto stimato. Purtroppo circola attualmente, mi dedicò, terribile, mi dedicò i suoi scritti, ma è stampato, a Enrico Guarando che disse, io non avevo mai detto certe cose, ma non potevo mentire. C'è una cosa che circola, che dice Enrico Guarando che disse, vedrai, la passione non è niente. Io una cazzata del genere, e però non potevo smentirlo, no? E questo qui adesso è per Roma, c'è una sua pièce teatrale, terribile, terribile. Questo qui non sapeva se dedicarsi alla scrittura o alla pittura. Noi abbiamo dei periodi di incertezza, sui 15 anni ci sono delle ragazze, per esempio, che stanno sempre giù con un'amica. Allora pensa, ma quelle lì per caso uno si chiede, delle oscillazioni sessuali. No, anche i ragazzi che stanno con l'amico del cuore, eccetera, poi uno prende un drizzone di qui, un drizzone di là, no? Capito? Ma insomma, quindi si è incerti sostanzialmente. E lui voleva però certamente una cosa, no? Fare una vita con gli zoccoli. Pensate che bella questa immagine, una vita con gli zoccoli. Cioè è in fondo la vita di un campagnato, di un contadino, di un paesano. Io me ne infischio dei soldi, ed è vero, ha dimostrato finora con la sua prodigalità di infischiarsene del danaro, eh? E a questo punto la pace, che sapete che insomma, poi dal bacio non si scappa, è il punto di partenza. Baciare è un'arte molto difficile. Assoluto difficile. Modulazioni di labbra, di lingua, non sbattere la chiostra dei denti sull'antra, obbligando un dentista, poi la vittima, eventualmente, tutte queste cose qui, eccetera. Ma la cosa più interessante quando si cerca di baciare una donna che non vuole essere baciata è non baciare la bocca. Questo è un punto nodale. È baciarla, come dire, in una sorta di circonvoluzione del viso, cioè altri punti, come a lasciare a lei la responsabilità di cedere la bocca. Quindi i baci sulle palpebre, no? Sui capelli, i baci sui capelli funzionano molto bene, per esempio. Molto bene perché danno tutta un'idea finta, naturalmente, teatrale, ma tutto il corteggiamento teatrale, di tenerezza, di protezione, una carezza, un bacetto qui in alto, no? In una sorta di avvicinamento, per cui, per esempio, nelle terapie sessuali, lo sapete, quando ci sono delle crisi di impotenza, una delle tecniche più notevoli è quella di accarezzarsi tutto il corpo senza toccarsi le parti sessuali. E allora le parti sessuali sono una tecnica di Master Johnson, americano. Le parti sessuali vengono alluzzate da questa esclusione volontaria. Avete capito cosa voglio dire? Chiaro, ecco. E così questo bacio dato da tutte le parti, sulle palpebre, eccetera, però escludendo la bocca. E alla fine naturalmente la bocca è quella che invece vuole più comunicare, E il bacio sulle palpebre è di una finezza, di una dolcezza. Naturalmente Frédéric questi discorsi non li fa. È inconsapevole. E direi anche la bellezza di questo racconto è proprio il fatto che siamo fra due persone inconsapevoli. Gli amori di due persone furbe, candide, esperte della vita, non interessa a nessuno. Don Giovanni è una figura che ha la sua, come dire, importanza storico-sociologica, ma è uno sciagurato come amante. Perché si incantano in realtà Romeo e Giulietta? Perché sono inesperti. Non possiamo immaginare che Giulietta abbia avuto 10 uomini e Romeo abbia avuto delle donne, eccetera. È un punto che ci richiamo sempre nelle cose l'originale, il fresco, la griff, no? Quante cose si vendono sui banchetti degli extracomunitari che sono fitte, E qual è la differenza tra il finto e l'originale? Questa bella frase, qual è la differenza tra il finto e l'originale, è la stessa differenza che noi notiamo tra due amanti esperti e privi ormai di freschezza e fantasia, e due ragazzi che non sanno amarsi. Allora noi gli vediamo la freschezza, l'originalità, insomma. Poi tutto sommato vediamo l'assoluto, l'amante inesperto è absolutus, è sciolto dai legami culturali, è uno che fa quel che vuole, che quando è di fronte al corpo dell'amante non sa dove mettere le mani. Diverso è l'amante esperto, che sa perfettamente dove mettere le mani. E tutto questo naturalmente ha dei pro dal punto di vista del buon esito del rapporto, ma anche dei melanconici contro, perché si perde un po', forse molto, di entusiasmo. Spero che queste parole siano registrate, c'è qualcuno che sta registrando. Sì. Bastardo, non la stava. Ah, non solo, però funzionano. Chi è che mi ha lasciato lì? Quella ragazza che è sempre lì che non può vedere. Perché? Aveva storia, questo è un problema grosso. Quando si ha storia, siamo di fronte a questo. Chapeau. Cosa aveva? Mi ripeto un po' perché mi piace molto la scuola. Tutti quelli che hanno storia, direi che l'unica condizione, prendiamolo un po' per i condenni, l'unica condizione per rinunciare a una candidatura è avere al contempo una lezione di storia. Tutto registrato. Basta, è una piccola parte. Allora a questo punto c'è un rumore. Due che stanno insieme in questa condizione e capite, lei ha il suo onore da difendere. Allora lei stende la mano alla scena teatrale per dirgli fermo, non ti muovere, no? E quando arriva, guardate la meraviglia di questo avverbio, quando entra una persona, lei ha una matita che sta tra le dita, la muove tranquillamente, è imperturbabile. Tutte le amanti di questo mondo, anche in erba come Madame Arnoux, sono abituate ad avere una faccia di bronzo quando devono difendere i loro sentimenti. Ci sono legioni di fidanzate che sorprese nella camera della casa paterna, in atteggiamento intimo con il loro ragazzo, hanno imparato a far finta di niente, ricomponendosi immediatamente. Io ho visto scene incredibili di indumenti intimi che venivano presi con grande disinvoltura, tirati fuori dal campo visivo, dal campo visivo, come fosse un moccichino, un fazzoletto, onde evitare qualunque sospetto in proposito. Cosa stai facendo? Sto studiando. Che è quello? Sono affreddata. Quindi questa tranquillità la dice lunga, naturalmente. E allora lui dice, signora, io il servizio intende dire di ceramica, naturalmente, il servizio sarà pronto, eccetera. E a questo punto è la seconda volta, vedete, che si crea una complicità del silenzio. Vi ricordate l'altra volta che non c'era stata una risposta? Dice, devo andare via, aveva chiesto lui, lei fa segno di sì. Questa volta lui dice, devo andare via? Anzi no, dice, il mio servizio di ceramica sarà pronto? E lei non risponde. Ecco, il silenzio può essere un luogo straordinario di complicità, di complicità. E quando la parola è interdetta, si parla con il silenzio. E molto spesso la parola nella vita è interdetta. È interdetta per motivi sociali, religiosi, quello che pensate voi, insomma, no? Ma il silenzio, pensate una tipica situazione di silenzio che parla, il bimbo che viene sgridato acerbamente dai genitori, minacciato di essere picchiato, il bimbo resta zitto. Perché? Se parla viene picchiato. O un allievo davanti al professore, all'esame, cioè, cioè non è che il professore picchia. Mi è capitato una volta di picchiare una ragazza perché era svenuta, la detestava, questa svenuta, io allora ho dovuto prendere la sberla, ma con uno scopo benefico, però c'è stato un, come dire, un qualcosa di malafede in me, perché io la stavo apparentemente facendo rinvenire, e in realtà, avete capito qual era la cosa? In realtà la sberla seguiva una... Lei è turbata? No, sembrava che fosse turbata. Sperle è rinvenuto. Oh, ma stavamo dicendo che. Stavamo dicendo che. Del silenzio. E a questo punto lui batte il ferro. Finché è calmo. Se tu hai ottenuto una vittoria, cosa fai? Lasci perdere? Lasci... No, no. Tutti noi abbiamo esperienze di questo genere qua. Io mi ricordo quando incontrai mia moglie tantissimi anni fa, un numero di anni spaventoso, 150 più o meno, e lei... era molto attenta nei miei confronti e io e mi disse quando possiamo vederci e io le dissi io veramente devo fare l'esame di latino e quindi dico un mese e mezzo e lei dice no, un mese e mezzo eccessivo e infatti 3-4 giorni dopo battere il ferro finché è caldo mi telefonò con successo diciamo così, no? Ma allora lui cosa fa? Cosa fa? Lui dice lui dice i discorsi che dicono tutti gli amanti del mondo, tutti, la loro stupidità o ingenuità, tutti dicono che hanno un'anima fatta per l'alto, tutti. E diceva che come faceva a pensare a un'altra donna se ne amava una? Questo è vero, uno può essere innamorato di due persone diversamente. Più volte abbiamo toccato questo discorso. E a questo punto però Madame Arnaud ha un'alzata d'ingegno tanto che piacevole, perché dice? Dice, ma adesso io sono arrabbiata che me l'abbiate detto, perché le convenienze mi obbligano a non vedervi più, perché me lo hanno per me, perché non può tenersi questa confidenza. Se tiene in sé questa confidenza, questo è adulterio. E naturalmente lui poveretto è disperato, dicendo vedi cosa vuol dire essere onesti, vedi cosa vuol dire mostrare come si è, eccetera. E protestò l'innocenza del suo amore. E poi dice una frase che in Flaubert ricorre spesso, dice ma che male ci sarebbe se noi due confondessimo la nostra tristezza, cioè ci mescolassimo nella nostra tristezza. Guardate che non dice se noi due godessimo insieme, quello sarebbe intollerabile, ma dice se noi due piangessimo. E in effetti lo struggimento sentimentale, è qualcosa in cui gli amanti si sono sempre parlati. Cioè non parliamo nella gioia, ma parliamo nel nostro rispettivo duolo. Quindi io sono triste, io ho una vita da nulla, voi siete sposata con quel delinquente di vostro marito, ma che c'è di male se noi parliamo insieme delle nostre tristezze, delle nostre tristezze? Dove ci sarebbe il male? Dice, lo vedete? Io lo vedo che voi non siete felici, come me, eccetera. E poi dice delle cose molto semplici. Molto semplici, e guardate la bellezza. Quando uno ha un grosso sentimento, non dice parole sofisticate, capite bene? Non fa una lezione, uno dice le cose più semplici del mondo. Se tu hai male, se tu hai male perché l'altra sera ero con una mia amica, stava togliendosi le scarpe, un pomo d'acciaio dall'alto le è caduto sul ditone, come si dice, lei sa cos'è il ditone? Boom! Io ho sentito perché? Poi lei si è molto contenuta, e ho visto questo fare. Il mio commento è stato, meno male che non ti è caduto in testa, è stato questo. E dice, per conforto, il dito è diventato naturalmente grosso, eccetera. Ma non è che in quell'occasione lei si è espansa, pur parlando molto bene, in discorsi, dicevo, oh, dunque, il dolore che sto provando in questo momento al ditone è particolare a tutti e intensità. Chissà quale potrà essere l'esito di questo. No, ha detto, ah! Allora qualcuno vuole amare, qualcuno va a dice delle cose molto semplici, dice delle parole che sono legate alla terra, quindi lui che cosa dice? Dice questo, dice io farò tutto quel che volete, questo è una, insomma, dice questo, non mi rompere tanto le palle, sono qua, sono il tuo servo, faccio tutto quello che vuoi, purché tu mi tenga con te. Quando vedi una persona che sta per lasciarti, tu sei disposto a stracciare tutte le dignità possibili. Diceva un giorno mia figlia, diceva, nulla è più stupido dell'amor proprio in queste cose qua. Quando uno dice, oh, ma io però in questo caso perdo dignità, ma che dignità una dignità, uno esprime il proprio animo fino in fondo, no? Farò tutto quello che non vi offenderò, voi volete che non vi offendo, volete che vi tocchi, e non vi tocco, ve lo giuro, vi lascio in pace, Cristo. Che devo fare? Purché possa rimanere con voi, e si lascia cadere perché non ce la fa più, perché il dolore morale, il dolore, l'affanno, ha dei riflessi sul fisico, chiari sempre, e a volte non ce la facciamo più, e quindi cade in ginocchio proprio a dimostrazione del fatto che non può tenere tutto questo dolore dentro di sé. Ma a questo punto se lui è in ginocchio vuol dire che lui è l'amante, e questo lei non può tollerarlo, avete capito? Anche il mettersi in ginocchio è una dichiarazione, non può tollerarlo, e allora dice su, alzatevi, non che qualcuno mi può vedere in ginocchio. Io non vi devo vedere in ginocchio, io non devo ammettere il fatto che voi siete uno che mi ama. Io non devo ammettere questo fatto. E allora lui però ha quella specie di coraggio dei disperati e dice, a mandarmi via io vi sfido. E poi dice qualcosa di straziante, di tutto meno. Questo fatto che sia tutto vero toglie ogni sapore retorico e rende queste parole immortali. Dice gli altri, dice piangendo su se stesso, non era con dubbio, ma noi ritorniamo anche a questo, a piangere su noi stessi quando vogliamo ottenere qualcosa. Tutti si scannano, si affannano, se ne va più per i soldi, per quello. Io non ho niente, non ho una professione, voi siete la mia unica occupazione, io non posso vivere senza di voi. Insomma, sono frasi meravigliose. Sono frasi, vedete, che hanno un doppio effetto, possono avere un effetto oppure possono avere un altro. Se uno è innamorato della persona, anzi, cominciamo dall'altro, se queste frasi vengono dette a una persona che non ti ama, provocano una specie di odio, perché sembra una specie di violenza carnale proprio. Nulla è peggio che una dichiarazione d'amore fatta a chi non ti ama. Nulla è peggio. Quando tu vedi un viso che freme, che trema per comunicarti il suo desiderio, ma ma a te fa orrore, oppure semplicemente ti è indifferente. Ecco, allora quella è una delle grandi tragedie della vita per chi fa queste dichiarazioni. Ma l'altro caso, in cui queste cose vengono dette a chi ama o a chi è disposto ad amare, e allora questo è accendere naturalmente tutte le fiaccole del mondo, frasi di questo genere qua, però anche lei non ce la fa fisicamente a sopportare. Lui, avete visto, è caduto in ginocchio. Lei trema. Cioè la espansione dell'affettività, vedete come è proprio, tiene presente sempre l'aspetto fisico della persona. Lei trema e gli dice: andatevene via, di grazia. Ora, chi è che dice, vediamo un po' se arrivate a fare questa bella considerazione, chi è che dice: vai via, ti prego, ti scongiuro, di grazia? In quale condizione lo si fa? Come? Disperazione, sì, ma a chi ci si rivolge? Chi è la persona che tu vuoi mandare via? Non so se vi faccio bene la domanda. Un amante? Chi è, ecco, l'artefice del tuo dolore? Ma chi è? Chi può essere il massimo artefice del tuo dolore? Lasciate lavoro, non c'entra più lavoro. No. Allora ti aiuto. Vabbè, lo dico. Un boia. È il boia che cerchi di mandare via. È l'assassino che cerchi di mandare via. E tu sei la vittima. È il carnefice di fronte alla vittima. E tu scongiuri il carnefice di andarsene via. E come Baudelaire ha mirabilmente descritto, quando si è in un rapporto d'amore, uno è il bourreau, il carnefice, no? E l'altro è la vittima. Ecco, e l'altro è la vittima. E quindi lo prega di andare via. E lui, commenta Flaubert in questo modo, lui, Frédéric, amava a tal punto lei che acconsente. E se va. Fermiamoci qui 10 minuti. Titolo. Virgolette, non posso sposarmi con un altro. Così capitolo invece adesso 26. Vediamo questo titolo, l'amore. Comincia subito dopo la pagina successiva ed è il capoverso. Mi raccomando il telefonino se l'avete visto. L'humeur de sa fille l'avait forcé de la mettre au couvent. E per quanto riguarda la sua amica Adriana, c'è sempre questa lezione di storia. Non c'è senso. Allora, quello che noi adesso stiamo per vedere è una. La ragione per cui ho usato questo titolo così semplice, così ellittico, in fondo, è perché questo è l'amore. E cose selvagge dei corpi, gli accostamenti selvaggi di quelli, non so. Questa pagina che voi leggiamo è la descrizione dell'amore. Il fatto che dica là, tutti gli amori hanno questa pagina dentro. Ricordatevi, quindi segnatela con in modo particolare, che questa è la descrizione dell'amore. Se voi nella vita vostra non avrete queste cose qui, non avrete conosciuto. Mettetevi in costruzione l'anima in pace. I due si incontrano. I due si incontrano e come fanno a incontrarsi? si incontrano a casa di lei. Voi sapete che quando due amanti si incontrano, un problema è sempre quello di dove incontrarsi. Non so se nelle vostre tormentate, già tormentate vite sentimentali, avete questi problemi. Ma, per esempio, come ci si incontra in un motel sulla Salaria? Ma, no, è una passata sveltina di via, eccetera, ci si incontra male. Brutti, asettici gli hotel sulla Salaria, ma anche sulla Casilina. Vi potrei anche dare un elenco, ma no, non parlo. A casa di lui o a casa di lei, questa è l'alternativa. Bisogna vedere qual è la casa che vuota, qual è la casa che è libera, così. O però ci sono, nella borghesia attuale romana, ci sono questi casotti al mare, in cui ci sentiamo al mare per... Allora uno va alla Dispoli, a parte il fatto che andare alla Dispoli è rattristante, non vorrei offendere la sensibilità di nessuno, di per sé. Nel Nello a Santa Marinella il peggio è Ostia sicuramente, però anche Torvaiani da Moschezza, insomma. Comunque bisogna andare da qualche parte. Questo è il concetto. Loro vanno, anche perché, per quello che mi dica, in casa di lei. In casa di lei si è sicuri, perché la bambina, che è abbastanza difficile di carattere, l'hanno messa al convento, al collegio. Il maschietto passava i pomeriggi a scuola, a Roma, manco a parlare, è sempre fuori, faceva dei lunghi pranzi al Palais Royal con Regent Bar, sono personaggi che dovete conoscere poi naturalmente, le citoyen Regent Bar, e con la Nicopin. Quindi nessuno noioso poteva lì sorprendere. Ecco. E adesso però leggiamo. Vediamo questa frase decisiva. Cominciamo di qui. Era inteso naturalmente che non dovevano appartenersi. E questa convenzione, che li garantiva del pericolo, facilitava le loro confidenze. Ella gli disse la sua esistenza d'un tempo a Chartres, in casa di sua madre. Il suo bigottismo, il suo essere religiosa verso i 12 anni, poi fu olio di musica quando cantava fino a notte tarda nella sua cameretta da dove si vedevano i bastioni. E lui raccontò le sue melanconie di collegio e come nel suo cielo poetico risplendesse un viso di donna, così che vedendola lei per la prima volta l'aveva riconosciuta. Quei discorsi non riguardavano di solito che gli anni della loro frequentazione. Lui ricordava insignificanti dettagli, il colore del vestito in una certa epoca e quale persona un giorno era sopraggiunta e quel che aveva detto lei un'altra volta ed ella rispondeva meravigliata, sì, mi ricordo. I loro gusti, i loro giudizi erano i medesimi. Spesso quello dei due che ascoltava l'altro esclamava anch'io. E l'altro a sua volta riprendeva anch'io. E poi erano interminabili lamenti contro la provvidenza perché il cielo non ha voluto. Se ci fossimo potuti incontrare. Se fossi stata più giovane, sospirava lei. No, io un po' più grande. E immaginavo una vita fatta tutta d'amore, abbastanza feconda per riempire le più vaste solitudini, e che superava ogni gioia possibile sfidando tutte le miserie. E quelle ore sarebbero scomparse in un continuo riversarsi di se stessi e che avrebbe fatto costruito qualcosa di splendente e di alto come il palpito delle stelle. Quasi sempre. E quanti? Thank you. bastardo. Scusate, la commissione dall'altra parte di Giovanella avrebbe gradito, sapete? Vabbè, l'avrebbe gradito, vero? Figlio di puttana. Sono anni che persisto, pensate quante parole mie ha sentito. Vero? Bravo, oh. Allora si immaginavano una vita, eccetera, eccetera, eccetera. Quasi sempre rimanevano all'aria aperta in cima alle scale, cime d'alberi giallite dall'autunno, si ammassavano davanti a loro inegualmente, fino al bordo del cielo pallido, oppure andavano fino in fondo al viale, in un padiglione che aveva come mobilio semplicemente un canapè di tela grigia. Dei punti neri macchiavano lo specchio. Le mura esalavano un odore di muffito e loro restavano lì in piedi discutendo di loro stessi e degli altri, di che sia, con rapimento. Qualche volta i raggi del sole, attraversando le persiane, tendevano dal soffitto fino a terra come le corde di una lira, ed il pulviscolo turbinava in quelle barre luminose. Lei si divertiva a tagliarle con la mano. Frederica la prendeva dolcemente e contemplava il brico delle sue vene, la grana della pelle, la forma delle dita. Ognuna di quelle dita era per lui più che una cosa, era quasi una persona. Lei gli diede i suoi guanti e la settimana dopo il suo fazzoletto. Lei lo chiamava Frederick e lui la chiamava Marie, adorando quel nome fatto apposta, diceva, per essere sospirata nell'estasi, e che sembrava contenere nuvole di incenso, distese di rose. Arrivavano a prenotare in anticipo, a fissare in anticipo il giorno degli appuntamenti, e uscendo come per caso lei andava incontro a lui sulla strada. Lei non faceva nulla per eccitare il suo uomo, perduta in quella mancanza di pensieri che caratterizza le grandi felicità. Durante tutta la stagione portò una vestaglia di seta bruna bordata di velluto simile, una veste elegante che conveniva alla mollezza dei suoi atteggiamenti e alla sua fisionomia seria. D'altronde era arrivata al mese d'agosto delle donne, epoca al tempo stesso di riflessione e di tenerezza, in cui la maturità che comincia colora lo sguardo di una fiamma più profonda, quando la forza del cuore si mescola all'esperienza della vita e quando sulla fine delle effusioni l'essere completo trabocca di ricchezza e l'armonia della bellezza. Mai aveva avuto più dolcezza, più indulgenza. E sicura di non cedere, si abbandonava a un sentimento che le sembrava un diritto conquistato dalle sue pene. Tutto questo era così buono, del resto. Era così uomo, che abisso tra la grossolanità di Arnoux e le adorazioni di Frederic. E lui tremava di perdere con una parola tutto quello che credeva di aver guadagnato, dicendosi che si può tornare su un'occasione perduta, ma che non ci si riesce a riavere da una goffaggine. E lui voleva che lei si desse, non che fosse lui a prenderla. La sicurezza del suo amore lo dilettava come un anticipo del possesso. E poi il fascino della sua persona gli turbava il cuore più dei suoi sensi. È una beatitudine infinita, una tale prezza, che dimenticava quasi la possibilità di una felicità assoluta, ma lontano da lei, delle fuggiose cupidice lo divoravano. Per questo ci furono nei loro dialoghi degli intervalli di silenzio. Qualche volta una sorta di pudore sessuale li faceva arrossire l'uno davanti all'altro. Tutte le precauzioni per nascondere il loro amore lo svelavano. E più l'amore diventava forte, più i loro modi si facevano contenuti. E attraverso l'esercizio di una tale menzogna, la sensibilità si esasperò. Godevano deliziosamente del profumo delle foglie umide, soffrivano del vento dell'est, avevano irritazioni senza motivo, presentimenti funebri, un rumore di passi, lo scricchiolio del legno, causavano loro spaventi come se fossero stati colpevoli, si sentivano spinti verso un abisso. Un'atmosfera tempestosa li avviluppava, e quando dei lamenti sfuggivano a Frederick, lei accusava se stessa. Oh sì, sì, io faccio male, mi comporto da civetta, non venite più dunque. E allora lui ripeteva gli stessi giuramenti che lei ascoltava ogni volta con piacere. Allora, vediamo questo capitolo. Che inizia con una cosa bellissima, importantissima, cioè tra di loro viene stipulata una convenzione, no? La convenzione che non si ama, ma l'amore, la parte fisica dell'amore non può essere espresso. Voi sapete che in tutta la storia della civiltà, in particolare della civiltà cristiana, ovviamente, no? Si è cercato di reprimere, e questa è una colpa mortale, secondo me, del cattolicesimo, altro che la pedofilia. La pedofilia sono scherzetti a confronto di questa colpa. Cioè, si è cercato di reprimere l'amore fisico, incanalando mai prima del matrimonio, tante cose che sapete, ma che è bene che non sappiate. E quindi loro fanno un patto, il patto di non toccarsi, e credono che non toccandosi, non avendo abbracci, baci, pasti, è la più terribile dell'ipocrisia, perché invece questa distanza fa sentire sempre più il desiderio, che diventa folle, delirante, incontrollabile. Lo fanno naturalmente questo patto tra di loro in buona fede, no? Ma con risultati poi funesti, disastrosi, si diventa impotenti, insomma, se non si segue madre natura, vengono fuori tragedie. E guardate l'espressione come è splendidamente convenzionale, voi appartenete a cultura che è lontana da questa veramente centinaia di anni, insomma, e forse non capite nemmeno cosa vuol dire quando uno appartiene a un'altra persona sessualmente, forse lo capite perché avete avuto qualcosa nella famiglia che avete fatto capire, ma una volta si diceva così quantomeno, io appartengo a te, tu appartieni a me, cioè io sono il tuo possedimento, come un'automobile, quindi loro avevano detto io non appartengo a te. Questo non appartengo, cosa vuol dire poi crudamente? Vuol dire io non commetto un coito con te. Uno può appartenere nell'anima a una persona, no? Naturalmente mi piace raccontare delle piccole cose per capire, avevo avuto da giovane un contatto di questo genere qua con una ragazza, ero molto giovane, e poi non l'ho più vista, e poi l'ho vista dopo 23-24 anni, cosa di questo genere, e lei sapeva, il marito sapeva di me, e ha detto, ah, ma con nulla. Lei me lo riferì. Mio marito ha detto che non è successo nulla. E allora ha commentato con me: pensa quanto è stupido mio marito. Perché le cose dello spirito sono molto più invasive, le cose della mente e dello spirito, che le cose del corpo. Le cose del corpo le puoi fare anche non pensandoci. Quindi, credendosi al riparo dell'amore fisico, vivono l'amore in tutta la sua dimensione. E c'è una ritualità che viene rispettata con splendida logica, se vogliamo. Nell'amore la prima cosa che uno fa, quindi lo vedete come A, è raccontare il proprio passato all'altra persona. Quando inizia una storia, si racconta, quindi questo dal capoverso che inizia con L, lui, D, fino all'altro che è se discute, nambra se, mettete A, raccontano la loro vita rispettiva. Ella gli parlò della sua esistenza di un tempo a Chartres, in casa della mamma. Come vedete, tutto molto tranquillo, no? In casa della madre, Chartres, Chartres è una cittadina meravigliosa, mangiato le ostriche, cose del mondo l'ultima volta che sono andato. E lei stava nella sua, lei aveva avuto una devozione, cioè aveva avuto una inclinazione religiosa verso i 12 anni, no? Perché è quando la religione diventa un luogo in cui ti senti vivere. Ci sono età in cui le ragazzine a volte, quanti ce ne sono, vogliono farsi fuori, quelle età, 12 anni, 11 anni, 12 anni, no? E naturalmente le monache. E poi la musica. La musica. La musica non è come la letteratura. La musica è l'arte di comunicare, diceva sempre il sommo Proust, tra le persone. E quindi la musica è la cosa in cui la nostra sensualità, la nostra spiritualità, tutto può manifestarsi. Quindi cantava. Voi sentirete, a parte la bellezza delle voci, naturalmente, voi sentirete molte ragazzine cantare a quell'età. È molto più di un bambino canta, un bambino canta, ma le ragazze un tempo, a una certa età cantavano, perché il canto esprime uno schiudersi all'esistenza. Quindi era diventata religiosa, molto religiosa, poi aveva un furore di musica, furore, cioè non era un piacere semplicemente, era un furore di musica. Cantava fino a notte nella sua cameretta. Guardate l'arte di questa espressione. Non camera, ma cameretta, perché è una ragazza, perché non ha diritto di avere una camera più grande, no? C'è la cameretta, in genere c'è la camera, a volte adesso come adesso ci sta in tre nella stessa stanza, ma mi ricordo per esempio che c'era, io avevo uno zio che aveva una camera, chiaro, suo fratello, sua sorella, mia zia, dormiva nel salone, perché la donna non aveva diritto ad avere una camera sua, laddove l'uomo, sì, voglio dire, da altri tempi naturalmente, no? E lei, questa ragazzina, stava nella sua cameretta cantando, cantando, e allora lui racconta le sue cose, le sue melanconie di collegio, vedete, e poi il fatto di come l'aveva sognata. Tutti gli uomini, tutti maschi, sognano la principessa azzurra. Tutti sogniamo il nostro principe, la nostra principessa. Cosa vuol dire? Poi tutti sappiamo che non esiste. Il fatto che sappiamo che non esiste, intende, non significa che non lo sogniamo, che non ci immaginiamo, perché diciamo, ma come sarà la persona con cui io mi incontrerò? Forse ne incontrerò più di tanti, ma in genere non è che uno ha pensieri di questo genere, voglio incontrare, dice una ragazza di 15 anni, 10.000 uomini. Poi magari incontra, ma ha questo progetto, no? Io le ho conosciute di ragazze di vita mia, ne ho conosciute 20.000, quando, gli studenti che ho avuto sono stati circa 20.000. Non ho mai incontrato nessuna ragazza che mi dicesse a una certa età: signorina, qual è il suo sogno? E questa con gli occhi spalancati, radiosi, mi avesse risposto: vorrei incontrare 10.000 uomini, poi magari li ha incontrati, ma non è stato però una cosa, no? Le donne, dice il Proverbo, vogliono incontrare l'eterno sposo, della deodetta, per l'uomo è un po' diverso, ma sostanzialmente tutti vogliamo Dio. Dio con la D minuscola, l'invenzione di Dio nasce dal desiderio dell'assoluto. L'invenzione di Dio nasce dal desiderio dell'assoluto. Quindi ogni uomo, ogni ragazzo sognava la principessa assoluta. Questi discorsi, paragrafo B, che va da segli scuro a di sotto, moi aussi, vedete B. Questi discorsi, riguardavano il tempo spesso, quindi dopo che sono raccontati la loro vita, raccontavano il tempo, riguardavano il tempo in cui erano stati insieme. E allora dovete pensare che quando si è stati insieme senza stare insieme, allora uno ricorda moltissimi particolari, ah, tu quel giorno avevi quel certo vestito, e l'altro se lo ricorda, e allora è come essere stati a contatto nel passato insieme, senza averlo saputo. Erano minimi gesti, minimi dettagli che uno ricorda dell'altra persona. Il colore del vestito in una certa stagione e chi era arrivato nella stanza in quel momento. Ogni volta che l'altro dice sì, mi ricordo, è come creare un conto dell'anima, è come creare un contatto. Sì, mi ricordo, pioveva quel giorno, mi ricordo. La parola mi ricordo è fondamentale nella nostra esistenza. Immaginiamo che non esistesse più questa espressione, mi ricordo. L'umanità avrebbe perso metà di se stessa. Mi ricordo. Noi siamo fatti di ricordo. Anzi, più vai avanti, più sono fatti di ricordo. No? Da giovani, dalla vostra età, se uno facesse una seduta psicoanalitica, una terapia analitica, no? Quanto ci mette a raccontare la sua vita sul lettino dello psicanalista? Pazzo! Due giorni, poi naturalmente grosse linee, no? E quando poi arrivate a un'età matura, quanto ci metti? Madonna mia, è tutto un ricordo! È tutto, se vogliamo, anche dolce, cimitero, non c'è più nessuno, sono scomparse persone, morti, amici lontani, amanti che non ci sono più, fotografie che tu trovi e dici, ma chi è questa? Questa è una persona con cui ho trovato una volta una lettera di una persona che mi diceva delle cose amorose, mi dico, ma non so chi sia. Non so, sto cercando di ricostruirmi, la lettera non ha la data. E non so assolutamente chi sia, però dice a un certo punto una cosa meravigliosa, che adesso tu sei il padrone della mia vita. Chi è questo? Non lo sapevo, non avevo idea di chi fosse. Assolutamente. Perché i ricordi hanno questa bellezza e questa caratteristica, che non sono netti spesso, ma sono sbiaditi, sfumati. Quindi la vita di una persona è fatta di ricordi, ma non precisi netti, alcuni sì, alcuni, specialmente le cose grosse, drammatiche, sono tanti sono sfumati, ma chi era? Era Paolo o Giuseppe? Ma chi era? Era Maria o Giovanna? Allora, terza fase. La terza fase che comincia con pour quoi le ciel ne la dit pas voulu, vedete C, ed è la fase in cui due amanti impossibili cominciano a dire a se stessi, osteria puttana, cioè lo dico. Perché non ci siamo incontrati? No. Come sarebbe stato bello? Bene, ragazzi, vi sto introducendo al punto sostanziale di Flaubert, il condizionale passato. Tutta l'opera di Flaubert si regge sull'impiego di un modo verbale, il condizionale passato. Come sarebbe stato bello. E naturalmente com'è che sarebbe stato bello? Sarebbe stato bello se ci fossimo incontrati. Vi sarà capitato o vi capiterà di stare con una persona con cui in contrarie con cui le cose non hanno potuto andare nel giusto verso. E allora mi dite, ma come sarebbe stato bello? Tutto quello che non abbiamo potuto vivere ha un fascino particolare. Io ho già citato un grande libro difficilissimo, peraltro uno scrittore francese della seconda metà del XX secolo, che è Bourgeois, tuttora vivo, un poeta e saggista, più grande come saggista che come poeta, che parla in un libro che si chiama La Vierge, libro totalmente inaccessibile a voi come difficoltà. Dico a un Carrefour, a un bivio, a un certo punto uno va, a un bivio tu devi scegliere una strada, no? O qui o là, è vero. Quindi lui sceglie la strada A. Però mentre va per la strada A e vede il paesaggio che naturalmente attorno alla strada A, si chiede, ma se avessi scelto la strada B, che cosa mi sarebbe accaduto? Qui, in questo itinerario, incontro certe persone. Ma se avessi scelto quell'altra strada, quali altri avrei visto? Quali persone avrei incontrato? E tutto questo si riveste di un fascino enorme, perché l'idea di quello che tu avresti potuto vivere e non hai vissuto è struggente. Di quello che tu non hai potuto vivere, vedete come il condizionale passato sia fondamentale. Allora loro si dicono, perché non ci siamo incontrati prima? E siccome hanno differenza di età, fra l'altro vi comunico la differenza di età che hanno. La differenza di età non è detta qui, ma se stiamo alla storia, alla realtà, e la donna, Elisa / Michelle, aveva 11 anni più di lui. Siccome quando comincia il racconto lui ha 18 anni, e adesso siamo nel 48, e sono passati 8 anni, perché comincia nel 40 il racconto, quindi lui adesso ne ha 26, se voleva, perché poi c'è un personaggio romanzese, quindi da tanto per avere un'indicazione, e lei ne ha 26, ne ha 37. Questa notazione è importante, perché dice dopo lei era arrivata al mese d'agosto delle donne, e il mese d'agosto delle donne, cioè l'estate delle donne, è il momento in cui le donne sono belle. Oggi, come vi ho detto, gli anni sono diversi, una donna di 37 anni ha voglia di arrivare all'estate. L'estate della donna oggi è sui 45, se la donna è bella, se è brutta, allora non vale la pena di considerare neanche quando non è bella. Ma se è bella, 44, 45 è il top, senza dubbio. Lenta discesa, questo vale anche per l'uomo, detto. Per tutti c'è la discesa, diciamo che più con più o meno scalini, ma per tutti c'è la discesa. Allora, lui dice, ma io avrei dovuto nascere dopo, avrei dovuto nascere prima, no? Dice questo. Egli si immaginè, a quel punto mettete vicino la lettera D e guardate quest'altra piccola cosa della storia. A quel punto si pensa non solo come sarebbe stato bello insieme, ma cosa avremmo fatto insieme. E loro immaginavano una storia, una vita esclusivamente amorosa, tanto feconda da riempire le più vaste solitudini, che eccedeva ogni gioia, sfidava ogni miseria, in cui le ore sarebbero scomparse in un continuo riversarsi dell'uno verso l'altro, e che avrebbe fatto qualcosa di risplendente. Quando una volta, forse anche adesso, cioè adesso non voglio sembrare cinico, quando due persone si amano e si sposano, una volta ci si sposava soprattutto da parte delle donne per uscire fuori dalla famiglia, avere un po' di libertà, eccetera. Ma insomma, adesso le cose non sono più esattamente così, insomma. Quando ci si sposa, essendo innamorati, che cosa si pensa? Essendo innamorati, direi il punto. Si pensa che tutto sarà meglio. Si pensa che si potrà avere, se piano, rapporti sessuali mentre lei fa le patate fritte. si pensa a delle dolcezze, del fare la colazione insieme la mattina, del non dovere più andare in una casa o nell'altra per stare insieme. Si pensa a una cosa bellissima e direi che non si riesce a capire, alla dolcezza del corpo dell'altra persona nel letto, ma non quando si hanno rapporti, semplicemente quando dorme. Quando dorme vicino a te, tutto questo dà una serenità straordinaria. Si pensa che la vita possa essere solo questo. Per cui, come diceva D'Annunzio, quando una bellissima frase di D'Annunzio, scrivete D'Annunzio, il piacere. Quando, citato da Enrico Barato, quando l'ingannevole fermento cadde, anzi dice così, tutto l'ingannevole fermento cadde, il piacere di D'Annunzio, quando poi queste cose scompaiono, allora uno rimane deluso. Perché dice, ma come? Era questo quello che io avevo sognato. E adesso invece la vita è una vita tetramente quotidiana, fatta di bollette da pagare, di problemi nel lavoro, di rinfacciarsi l'un l'altro delle manchevolezze, non hai fatto questo, non hai fatto quell'altro. Continuamente bisogna cercare di rimettere la barca dritta, di riprendere il timone. Ed è molto difficile. Si pensava prima che l'amore venisse da sé, che tutto fosse semplice. Questo punto E comincia con presque toujours. Questo avveniva stando loro naturalmente in un certo luogo. Ricorderete che per Flaubert tutto avviene sempre nel luogo e nei luoghi e nel tempo, nello spazio e nel tempo, per dare proprio un'idea di verosimiglianza, no? Come vi ho detto più volte, non è che ci si innamora senza tempo, o in estate, in primavera, non è che si muove, uno muore in una stagione. Quando avrete, mi auguro che abbiate più tardi possibile, delle persone care che sono morte, perché moriranno i vostri genitori, morirà il vostro compagno, Dio non voglia i vostri figli un giorno, voi la prima cosa che penserete riguardo, mettiamo un evento funebre, sapete qual è? È che quella persona è morta in autunno, in estate. Avete proprio il senso del tempo, della stagione in cui si è. E così qui c'è una determinazione spazio-temporale. I due erano in piedi e sulla cima delle scale. Questo sulla cima delle scale, Flaubert scrive per autocitazioni, perché nella Bovary, una parte meravigliosa della Bovary, su cui ho a lungo scritto nel mio libro sul mattino, anche loro sono sulla cima delle scale, in pratica. Guardate come questa determinazione, mettiamo che voi foste registi, no, di uno spettacolo, il fatto che loro due si stiano sulla cima delle scale, all'aria aperta, è significativo dello spazio che ha dinanzi, va bene? E vanno spesso in un padiglione. In un padiglione. Siamo in campagna, eh? Nel padiglione non c'è niente. C'è solo un canapè. Un canapè dove loro si... Non fanno l'amore, eh? Oh, l'amore non esiste, non esiste, l'amore esiste. In cui si siedono castamente, eh? E in questo padiglione ci sono... c'è uno specchio con i punti neri. Sapete che gli specchi, con il corso del tempo, si macchiano. Io ho in casa, un meraviglioso specchio della fine del Seicento, alto, così, cioè, che ha purtroppo punti neri, bisognerebbe farci qualcosa, questi bisogna fare. E quindi uno se lo chiede, quei punti neri che insomma danno molto odeur du temps sostanzialmente. C'erano questi punti neri sullo specchio, c'era l'odore di muffito. L'odore di muffito non è piacevole, ma se l'odore di muffito, ascoltate bene, se l'odore di muffito è in un posto in cui tu ami una persona, l'odore di muffito diventa una cosa meravigliosa. Giacomo Leopardi, che qualcuno di voi deve aver sentito nominare nei suoi studi, sicuramente, diceva, un muro, un muraccio, un pezzo di muro su cui tu ti sei appoggiato amando una persona. Poi ho detto, lui dà, credo, queste grandi esperienze, in questo senso qua. diventa meraviglioso, diventa meraviglioso. Io mi sono trovato dove ho insegnato anni, 4 anni, diceva, a Chieti, Chieti è Chieti Scalo, Chieti, cioè nulla per rovina, è uno dei posti più brutti del mondo. Avevo dei colleghi che dicevano, preferirei essere nudo nel deserto dell'Australia piuttosto che trovarmi qui a Chieti Scalo. Però io avevo dei ricordi, se ne avevo delle esperienze sentimentali, quindi Chieti Scalo, se mi dite soltanto il nome di Chieti Scalo, orrendo, un posto spaventoso, sala d'aspetto della stazione, sbienca, lercia, eccetera, eppure nel cuore che sta, nel cuore sta. Quindi questo dolore di ufficio diventava per loro meraviglioso e si chiama Chiamaris. Come si chiama? Gli amanti, prima si dicevano il nome, insomma, si davano dei titoli, e poi adesso si chiamano Ferretti e Marini. Pensate che passo avanti si fa. Perché, vedete, l'amore, dice Flaubert, è come slittare in avanti. Quando è cominciato, se tu sei sul declivio, sei sul declivio, seduto sul declivio, è un problema di sapore al culo. Questo è un bel esempio. Prova a insaponarti il culo. Questo è un esempio meraviglioso. Stai su un declivio, avete presente? Ma non è possibile che non vai giù. Fatalmente cercherai con i piedi, con le scarpe, di tenerti. Sapete gli scivoli che ci sono nei giardini pubblici per i bambini? Li avete fatti? Li avete fatti tutti. Ecco, io l'ho visto nel giardino pubblico vicino a casa mia, ne ho visto uno, non c'era nessuno in giro. Ho avuto, vi confesso, una piccola tentazione, poi ho pensato che mi sarei ammazzato, però la tentazione, avete capito qual era la tentazione che avevo? Era di, dico, ma sono sempre stato uno sportivo. Salgo su, avevo i jeans, avevo, ma non ero permesso, c'era poco la giacca. Dico, ma sapete cosa faccio? Dico, porca era, io mi vado giù dallo scivolo. E sono salito. Sono salito e poi devo confessare che con codardia non ho avuto il coraggio di mettermi, perché ho pensato a che velocità sarei andato giù, sarei spaccato le ginocchia, le gambe, oltretutto mi avrebbero probabilmente chiamato il 118, il 115, qualcosa del genere. Eppure quest'idea di avere il culo insaporato, questa è una bellissima, questo lo scrivete, questa è una cosa tipica guaraldesca, questo, il culo insaporato. Tu quando cominci l'amore, tu sai dove hai cominciato, ma non sai come va a finire. È chiaro? Non sai come. In questo posto parlavo di qualsiasi cosa, e poi avrete visto d'estate quando c'è una finestra, la persiana abbassata, c'è il sole, c'è un pulviscolo e uno mette la mano nel pulviscolo e lei gioca, sono giochi innocenti, sono giochi innocenti. Fissano gli appuntamenti in anticipo. E perché, capite? Perché uno vuole arrivare prima. Quando hai un appuntamento amoroso, tu guardi l'orologio e dici, ostia, ma devo ancora aspettare un quarto d'ora, mezz'ora, quindi ti incammini, ma l'altro ha pensato le stesse cose, e quindi anche l'altro si incammina, quindi l'appuntamento che doveva essere alle 3:15 diventa alle 3:15, diventa. E in questo anticipo reciproco noi riconosciamo l'amore, l'opposto di quello che la vita coniugale ti riserva, quando entrambi arrivati in ritardo all'appuntamento. Perché non c'è più nessuna emozione specifica. Come vestiva lei? Lei si era messa una tuta d'amore, una vestaglia, sempre quella. Che io mi sono chiesto naturalmente, perché poi il lettore ha fatto per fare queste cose, mi sono chiesto, ma la vestaglia poi puzzava. E forse sì. Ma la puzzava. Delle cose che abbiamo nell'amore sono meravigliose, sapete, per esempio, ti do i tuoi asciugamani, e poi gli asciugamani che vengono dati a lui vengono usati da lei dopo, dice, beh, intanto siamo una sola persona, questa è una cosa meravigliosa. chi non ha conosciuto queste cose, può anche andare alla laurea specialistica, insomma, la sua vita è finita, è perduta, a livello di quei due tizi che avete capito cambi di età, ma sotto i capelli. Dunque, e lei non si rende conto, perché il fatto di non toccarsi è un alibi, cioè loro si rendono conto, loro credono di stare tranquilli, lei con la sua vestaglia, e lui con questo suo amore, questa dedizione assoluta, e lei è arrivata all'età della vita, quella che vi dicevo prima, il mese d'agosto delle donne. Perché le donne, cito Leopardi, le donne di 30 anni, ve l'ho detto altre occasioni, hanno delle illecitere, una parola latina, vuol dire facili, che una donna di 15 si sogna, quindi spostate, una donna oggi di 45, se è bene, se è racchia, pietra, ha dei facili che una ventenne si sogna. E perché lei è così felice? Perché è sicura di avere la coscienza pulita, perché non gli ha messo, non ha lasciato che lui le mettesse le mani addosso, povera incosciente, no? E sentitelo bene come commento, quello che vedeva è che le sembrava tutto così buono, così nuovo. C'era un abisso tra quello che faceva Arnaud e quello che faceva invece Frederick. Lui ha ha preso posto? Il ragazzo che stava lui è una colonna, se vuole come facciamo? Madonna, Matteo! Ho finito, sono andato oltre i tempi, ma sai, è difficile qui interrompersi a questo punto. Un minuto e ho finito. Mi faccio dire un buio. Lo dica una cosa. Sono qui. Ah, no, e allora avevo capito. Mi scusi. No, perché era bocche viva. Però l'amore più diventa forte, più loro hanno maniere contenute. Capito? Quello che vuol dire è stare le chiappe strette. Più uno si sente caldo, e più deve contenersi. Io ho visto persone che si rigidivano non perché non amassero più, ma perché amavano troppo. E allora diventavano dei pezzi di legno. E allora la loro sensibilità, poveri cristi, dove va? Va a finire tante cose sulle foglie umidi, sui profumi. Allora tutto quello che è intorno a loro li eccita, perché non potendo eccitarsi l'uno con l'altro, come allora qualunque cosa intorno diventano con una iperestesia dei sensi. Chiusura scenica. Tu mi hai detto che l'avevi visto a settembre? No, subito, appena lo faccio, non stiamo scherzando.